Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Da ieri ci sono 25 persone in più in terapia intensiva e quasi 400 ricoverati in più. Numeri che arrivano all'indomani della nuova ministretta del governo, ma che secondo molti osservatori sono la testimonianza del fatto che sarà necessario qualcosa di più. E c'è già chi non esclude un nuovo lockdown, quantomeno localizzato, e già si parla di Milano. Del resto in Francia è scattato il coprifuoco in 8 città, tra cui Parigi. In Germania sono state varate regole simili a quelle italiane. In questo clima si apre oggi il Consiglio europeo chiamato a discutere di Brexit e Recovery Fund, sul quale peraltro non c'è ancora pieno accordo. Il fronte americano la notte ha portato ad uno scontro sulle mail pubblicate dal New York Post su Joe Biden e i suoi rapporti con l'Ucraina. Ci sarebbero le prove che Biden, da vicepresidente, aveva fatto pressioni per far rimuovere il procuratore che indagava sull'azienda per la quale lavorava il figlio. Come capite, una questione piuttosto complessa. Twitter ha sospeso l'account del portavoce della Casa Bianca, che ne ha diffusi i dettagli, e già si parla di censura. Ah già, poi c'è il calcio, la famosa vicenda di Juve-Napoli. Si chiude con un 3-0 a tavolino e un punto in meno per i partenopei. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Di Simone Spezia. Sono le 6, 31 minuti e 33 secondi, è giovedì 15 ottobre. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e benvenuti. C'è Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. Redazione anche Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Siamo qua e aspetto anche voi, come sempre, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp. Che ne pensate dell'ipotesi di un nuovo lockdown? O come dice il professor Crisanti, come ipotizza il professor Crisanti, l'idea quantomeno di un lockdown a Natale, cioè tutti fermi a casa, la gente che vive al nord non si sposta al sud, non andate dai parenti, dai genitori, dalle persone anziane più fragili, ve ne rimanete in casa vostra. E basta, e non incontrate nessuno. Facciamo una cosa, sentiamo proprio Crisanti, che è quello che ha fatto esplodere la questione ieri. Ma guardi, un lockdown in quel periodo potrebbe risettare in qualche modo il sistema, abbassare la trasmissione e alla ripresa aumentare la capacità di interdizione sul territorio, cioè aumentare l'efficienza del contact tracing e dei tamponi, perché così come siamo con questi numeri, cioè il sistema è saturato. Oh, a proposito di numeri, dato che c'è sempre un ascoltatore, qualche ascoltatore che me lo chiede la mattina. Simone, si possono conoscere le percentuali di contagiati sul numero di tamponi a marzo e ora? Allora, le dico che io questa cosa non la sto facendo e non la facciamo dall'inizio della pandemia. Per quale motivo? Innanzitutto perché questo numero di tamponi che ci viene fornito quotidianamente non è chiaro. Perché non è chiaro se in questo numero sono compresi i tamponi, quelli di verifica, per vedere se uno si è effettivamente negativizzato. Non sappiamo esattamente questi tamponi, se sono tamponi che servono per il tracciamento oppure no. Quindi la misura che sto dando quotidianamente e che ho deciso di dare è quella dei numeri della terapia intensiva e dei numeri dei ricoveri. Perché se crisi è una crisi sanitaria, e del sistema sanitario prima ancora che una crisi da contagi, perché è da là che misuriamo la tenuta del sistema e come siamo messi, non è da altro, non è dal numero dei contagi in sé, dalla pressione sugli ospedali, che in queste ore inizia a farsi sentire più forte in alcune zone d'Italia, in Campania, in Lombardia, a Milano in particolare, dove ci sono fronti di preoccupazione molto forti. Questo è Milano, il direttore per esempio delle terapie intensive del Sacco la mette così. Da qualche giorno noi assistiamo a un aumento esponenziale delle richieste. 3 giorni fa avevamo 4 ricoveri in più, poi ne abbiamo avuti 8, ieri ne abbiamo avuti 11. Se questo trend immaginiamo di proiettarlo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, potremo trovarci dagli attuali poche decine di pazienti ricoverati alle centinaia, quindi la situazione potrebbe potenzialmente diventare molto importante, molto esplosiva. Esplosiva, dice il direttore delle terapie intensive del Sacco di Milano, e così crisanti ancora. Le terapie intensive sono in genere in ritardo di una settimana sul numero dei casi, i morti sono in ritardo, i defunti sono, i decessi sono in ritardo di circa 20 giorni, 3, 4 o anche un po' di più, 4 settimane, quindi è chiaro che con il numero di l'aumento che abbiamo avuto nelle passate settimane fa prevedere che questi numeri peggioreranno. Il tema delle misure, che poi è il tema del lockdown o meno, cosa fare, cosa non fare. Sentiamo il famoso Ranieri Guerra dell'OMS. Sono misure molto leggere quelle del governo, dice. Lo vedremo fra 15 giorni. Il problema di questa epidemia è sempre lo stesso. Noi fotografiamo oggi quello che è accaduto 2 settimane fa. Fotograferemo fra 2 settimane il successo delle misure intraprese, quindi aspettiamoci ancora una lieve e costante risalita. Mi auguro che non ci siano scalini particolari come li abbiamo visti nei 10 giorni precedenti, però insomma sono misure abbastanza leggere, quindi tutto sommato sono sacrifici molto limitati che vengono richiesti in questa fase. Misure che devono essere progressive, dice Ranieri Guerra. Deve essere progressiva, altrimenti la gente non capirebbe, quindi ci si potrebbe attendere anche una reazione contraria, di mancata disciplina. Qui il problema è proprio l'interazione tra misure di governo e la comprensione da parte della gente di quale sia il significato e di quale sia la disciplina a cui tutti quanti veniamo chiamati. Facciamo una cosa, sentiamo anche Conte sul Natale, va? Io faccio previsioni per Natale, io faccio previsioni in questo momento delle misure più idonee, adeguate e sostenibili per prevenire un lockdown, però dipenderà molto da quello che sarà il comportamento di tutta la comunità nazionale. Questa è una partita in cui vinciamo tutti, altrimenti perdiamo tutti. Dice un ascoltatore, guardate, sul numero di tamponi avete ragione, mio padre in ospedale da un mese ne ha fatti 12, 12 tamponi in un mese alla stessa persona, capite che il numero di tamponi a questo punto non può essere affidabile. Cara Daniela Preziosi, bentornata di Domani. L'ultima volta ci siamo sentiti era al Manifesto, sei passata nel nuovo giornale Domani. Come vanno le cose, Daniela? Buongiorno, eccoci. Diciamo, al giornale vanno piuttosto bene. A Domani intanto buongiorno a tutti e a tutte e buongiorno e grazie Simone. Al giornale vanno bene, al Domani vanno bene, non vanno bene al paese. Io voglio fare una piccola cosa in conflitto di interessi, ma ci metto veramente un mezzo secondo. Sulla prima di Domani, oggi, ci sono dei grafici, li ha fatti il nostro data editor, un collega che si chiama Filippo Teoldi, in prima, l'abbiamo messo in prima per far capire esattamente come stanno le cose, con i numeri non si gioca, e si vede soprattutto la curva dei casi di Covid, dei contagi, e la curva delle terapie intensive, le due cose di cui stavi parlando. Ecco, la curva è la cosa impressionante, lo dicevano anche i contributi che avevi fatto ascoltare prima, perché stanno ripartendo la velocità di contagio e la velocità di ricovero in terapia intensiva dei tempi più bui, quindi è questo il punto purtroppo in cui ci siamo ritrovati in questo momento. Sì, ovvio Daniela, poi che i numeri, perché qualche ascoltatore ce lo chiede, i numeri delle terapie intensive non possono essere paragonati a quelli di marzo, per tutta una serie di motivi, innanzitutto no, è la per... curva infatti, esatto, non, esatto. Non è il numero, esatto, è esattamente quello il punto da una parte, e dall'altra parte tenete anche presente che ovviamente questo virus lo sappiamo trattare in in ospedale e in generale molto meglio di quanto non lo sapessimo trattare in febbraio o marzo, e quindi è chiaro che è più lento l'accesso alle terapie intensive, cioè i medici sanno come intervenire nel momento nel quale si presenta un caso di Covid con delle complicazioni, e quindi è evidente, no, che è diverso, però è chiaro che i segnali di preoccupazione su questo fronte ci sono, insomma, senza metterla giù sul terroristico, senza offesa per i colleghi del Fatto Quotidiano che oggi titolano Milano brucia, adesso non la metterei giù proprio così, però i fronti di preoccupazioni evidentemente ci sono, ed è questa la grande ombra che si staglia, Daniela, no? Anche sul vertice europeo che si apre oggi, e che è il vertice che deve decidere sul recovery fund tra mille divisioni, e può darsi paradossalmente che quello che sta succedendo in Germania, in Francia, in Spagna, qua da noi, dia un'accelerata alle trattative, forse, che dici? Purtroppo sì, diciamo, non è che ci auguriamo che questa sia la ragione reale, però abbiamo già imparato a capire che diciamo, l'Europa, uso questo termine, ci siamo capiti di cosa stiamo parlando, si è svegliata solo grazie purtroppo a una tragedia come quella della prima ondata dei contagi, quindi è possibile che questa situazione, che tra l'altro riguarda molti paesi europei assai più di noi, perché quando noi diciamo che ci troviamo insomma quasi come se fossimo su alcuni fronti, penso a quello dei trasporti, quasi come se fossimo impreparati, quasi come se fosse la prima volta, però dobbiamo pensare che in questo momento a Parigi c'è il coprifuoco e in altre capitali europee c'è una situazione piuttosto più pesante anche dal punto di vista dei contagi e dei numeri rispetto alla nostra. Quindi sì, probabilmente questa nuova improvvisa fiammata di emergenza contagi renderà più ragionevoli i paesi, da una parte i frugali, dalla parte gli altri, che insomma stavano un po' rallentando lo spacchettamento del recovery. Beh, anche perché Daniela, ricordiamolo, l'abbiamo sentito perché degli ascoltatori ci hanno mandato degli WhatsApp audio ieri proprio dall'Olanda, e ci hanno scritto dicendo: guardate, qua praticamente siamo tornati in lockdown anche da queste parti. Facciamo una cosa, sentiamo proprio Conte, perché ieri era in Parlamento, come è normale che avvenga, il Presidente del Consiglio prima di un Consiglio europeo va sempre in Parlamento a riferire, così sul ritorno del Covid e sull'Europa che deve essere unita. L'Europa è chiamata a rimanere unita. Insieme dobbiamo essere quanto più determinati in questa fase di recrudescenza continentale del Covid-19, ma anche di auspicato rilancio delle nostre economie. Ancora Conte sugli sforzi per evitare il rinvio. Continuiamo dunque a sostenere lo sforzo profuso dai vertici delle istituzioni comunitarie, dalla presidenza di turno tedesca del Consiglio dell'Unione Europea, volto a evitare il rinvio dell'operatività di Next Generation EU e del nuovo quadro finanziario pluriennale. Ancora sui numeri, perché volete dettagli. I ricoverati in terapia intensiva in marzo erano circa 4.000, 3.900 per essere esatti, nel momento di picco, adesso sono 539 in terapia intensiva, ok? Però c'è una crescita quotidiana che induce a qualche elemento di preoccupazione. Il grande tema del recovery fund non è, allora, innanzitutto se i soldi arrivano, quando arrivano, ma soprattutto mette in gioco quello, lo diciamo sempre, la capacità progettuale del paese, ossia la capacità del paese di fare le cose, così Conte su questo tema. Intendiamo inoltre prevedere un assetto normativo ad hoc per la governance, l'attuazione e il monitoraggio del piano, che sarà progetto questo che sarà opportunamente sottoposto all'esame del Parlamento. È qua che ci si gioca tutto, Daniela, non perché lo sappiamo come funziona questo paese, a mettere i soldi, a stanziare i fondi sono bravi tutti, e se vuoi la vicenda di come sta andando con le terapie intensive e con il raddoppio delle terapie intensive lo dimostra abbastanza bene, poi a mettere in pratica i progetti, questo è il punto dolente. Secondo me come non sempre sono bravi tutti a stanziare i fondi, no? Abbiamo abbondanti esperienze purtroppo in giro per le regioni di fondi che non sono stati neanche acchiappati, fondi strutturali che non sono stati neanche acchiappati, quindi questo secondo me è meno scontato, sei un po' meno ottimista di come sei tu, però naturalmente siamo alla vigilia della composizione di questo piano che giustamente si chiama, noi chiamiamo Recovery, ma per carità in Europa si chiama Next Generation EU ed è anche un nome più benaugurante perché fa capire quanto deve essere un investimento sul futuro e non un tappabuchi per delle cose presenti. E siamo alla vigilia, abbiamo poche indicazioni su questo, stiamo aspettando, speriamo di non dover aspettare troppo per cominciare a capire da che parte davvero vuole scommettere il governo per far ripartire il paese, per immaginare, è una situazione che non è mai successa dal dopoguerra, c'è una sorta di piano Marshall che è arrivato dopo, certo non una guerra per fortuna, ma sicuramente una tragedia immane come la pandemia, però abbiamo la possibilità di rilanciare il paese, rimetterlo su binari in cui non era. Stiamo aspettando, ogni volta che facciamo una domandina a qualche ministro ci dicono che dobbiamo aspettare di quello che succederà, noi aspettiamo perché speriamo di poi dopo che arrivi di non dover dire ve l'avevamo detto, no? Che dovevate farlo. Esatto. Siamo in questa condizione in cui se siamo troppo critici ci spiegano che ancora non hanno fatto ben bene le cose, poi, oppure che siamo antigovernativi, se poi invece poi aspettiamo il dopo quando arriva il dopo, anche il rischio di essere antigovernativi per un giornalista non sarebbe la fine del mondo, anzi, non è proprio anzi, un insulto, cioè se noi dobbiamo fare questo di mestiere, però insomma così come sta succedendo per la situazione in cui ci troviamo per la seconda ondata adesso, c'è il tema dei trasporti che è un tema infinito ed è il tema cruciale di queste ore, il tema cruciale. Ora noi capiamo che cambiare i trasporti delle città e delle regioni non è una cosa di piccolo momento, ma insomma dalla prima ondata sono passati più di 6 mesi, quindi ci potevamo immaginare che quello che sta succedendo adesso nelle scuole, cioè che i ragazzi si contagiano perché prendono l'autobus, fosse un pochino prevedibile. Ecco, perlomeno chi scrive, è vero che è più facile scrivere che fare le cose, però chi scrive qualche cosa aveva già cominciato a mettere in campo. Per carità, questo senza sostituirsi all'azione dei nostri governanti, i quali, però, dico solo questa piccola cosa, i quali però raccontando come ha fatto anche ieri il Presidente del Consiglio, che comunque va tutto bene, che siamo molto bravi, fanno un po' un problema tra la percezione di quello che è e poi la realtà che a un certo punto ti richiama all'ordine. Traffico. Certo, lo dico all'ascoltatore che lo chiede, c'è anche la situazione in Campania che è complessa. Per darvi un'idea vi do il titolo del Mattino di questa mattina: Campania, l'ingorgo dei ricoveri, da Napoli a Caserta, posti letto quasi esauriti. Sì, perché abbiamo parlato molto di Milano, della situazione di Milano, e certo, ovviamente c'è anche la Campania, una situazione altrettanto se non più complessa, ovviamente, perché la situazione della sanità campana è diversa da quella lombarda, per quanto quella lombarda ovviamente in fase di pandemia abbia mostrato i suoi limiti. Buongiorno a Veronica De Romanis, economista, docente all'Università LUIS, Guido Carli di Roma, membro del comitato direttivo dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica. De Romanis, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua. Buongiorno. Tra le firmatarie della lettera al Presidente del Consiglio e al Governo perché considerino le donne un investimento strategico per la crescita del Paese. Qual è l'obiettivo? Far sì che un pezzo del Recovery Fund sia dedicato esattamente a questo, a partire dal tema dell'occupazione femminile. L'Italia in Europa è al penultimo posto per tasso di occupazione femminile. Mi sembra, De Romanis, che ieri la risposta del Presidente del Consiglio sia arrivata, no? Tutto possa prendere la forma di sgravi, almeno per il momento, di sgravi sulle assunzioni di donne. Sì, questa lettera è stata scritta da molte donne, varie associazioni, ad esempio le Contemporanee di cui faccio parte, e il Presidente Conte ha reagito dicendo che una parte significativa delle risorse Recovery Fund sarà dato per destinato all'occupazione femminile. Ora, questo è un problema che ci portiamo dietro da anni. Noi siamo, come diceva lei, tra gli ultimi in classifica, abbiamo 14 punti di tasso di occupazione in meno rispetto alla media europea. Ora, questo non è solo un problema che riguarda le donne né che riguarda la parità di genere, ma riguarda la crescita di questo paese, anche perché ora con questa crisi le donne sono state ancor più penalizzate, mentre la precedente crisi in qualche modo erano state, diciamo, meno colpite. Qui invece sono stati colpiti i servizi, il turismo, tutti i settori dove lavorano le donne, quindi si ritrovano ad aver perso la loro occupazione. Quindi è fondamentale agire. Peraltro l'Europa ce lo chiede da anni di incrementare il nostro tasso di occupazione, quindi è giusto che una parte molto importante di queste risorse che arriveranno dall'Europa vengano destinate però in azioni concrete. Ecco, è importante evitare mille rivoli, distribuzione a pioggia, ecco, questo non può aiutare. Quindi definire delle priorità e poi dei progetti, a misurare l'impatto. Dei progetti e poi misurare l'impatto. De Romanis, sul tema degli sgravi, dell'ipotesi di sgravi fiscali per sole donne, le sottopongo un WhatsApp arrivato subito da un ascoltatore. Immaginavo che sarebbe arrivato un WhatsApp di questo genere. Dice: sgravi per sole donne, anticostituzionale. Guardi, questa è una vecchia idea che aveva sviluppato l'economista Alesina con Ichino. L'idea è quella di dare un incentivo di in più alle donne per andare a lavorare, perché il vero problema è che poi dal punto di vista economico la donna tende a dire: ma allora sto a casa se poi mi costa pagare una babysitter, se guadagno meno di mio marito. Quindi è un modo per mettere, diciamo, il negoziato tra moglie e marito alla pari. Ci sono dei problemi, ma io penso che si possono risolvere in qualche modo con altri sistemi. È allo studio. Bisogna sicuramente introdurre degli incentivi, altrimenti bisogna fare degli asili nido, ma se poi a prendere il bambino all'asilo nido ci va sempre la donna, non riuscirà mai a avere un lavoro full time, dovrà necessariamente fare un lavoro part time. E qui sì, facciamo un piccolo passo in avanti, ma non un passo vero, perché se andiamo a guardare le statistiche, moltissime donne fanno un part time involontario, cioè vorrebbero non farlo, e fare un part time significa avere anche una pensione minore, quindi attenzione a non creare un esercito di pensionate povere in futuro. Quindi ecco a cosa servono questo genere di sgravi: a mettere nel negoziato, chiamiamolo così, all'interno delle famiglie, una parità tra uomo e donna. Dice un'ascoltatrice, Francesca da Parma, risponde: anche il gender gap è anticostituzionale, cioè la differenza tra uomo e donna non è male. Questa è un altro ascoltatore, al quale spieghiamo, De Romanis, che l'occupazione non è un non so come dire, non è una quota fissa. Dice: sì, vabbè, ma se assumi donne non assumi uomini. È un po' lo stesso ragionamento che si fa con le pensioni, no? Si dice sempre: se alzi l'età pensionabile poi i giovani non entrano al lavoro. In realtà il mercato del lavoro è fatto in una maniera diversa e non è un qualcosa di statico. Dunque, questo è un punto fondamentale, un grandissimo errore. Questa è stata, come ha detto lei, la visione sottostante quota 100, cioè che il mercato del lavoro è una torta fissa, quindi se io mando via un anziano posso mettere un giovane. Quindi il timore, diciamo, di alcuni uomini è che se io metto una donna esce un uomo, ma questo è un grandissimo errore. Noi dobbiamo puntare a crescere, a far aumentare questa torta, quindi lasciamo gli uomini lavorare, mettiamo delle donne in più a lavorare che potranno produrre maggiore ricchezza poi da distribuire. Quindi l'occupazione femminile è fonte di grande ricchezza, ci sono moltissimi studi che dimostrano la ricaduta sul PIL di ogni punto in più di tasso di occupazione. Quindi le donne devono essere viste non più come una categoria da proteggere, come una minoranza, e questo è stato un grande errore del passato, ma neanche come solo una questione di genere. Le donne devono essere associate a maggiore ricchezza da produrre e da distribuire in questo paese. Solo così si potrà cambiare mentalità. E mi lasci concludere dicendo che per cambiare davvero le cose, perché il nostro premier sia credibile nella sua promessa, è necessario anche degli esempi, dei modelli, cioè mettiamo più donne nei centri di potere, le donne devono poter decidere. L'Italia è uno dei paesi che ha veramente troppe poche donne nelle stanze dei bottoni, e forse anche per questo le cose stanno così indietro. Grazie a Veronica De Romanis per essere stata con noi, che è economista, docente all'Università Luis Guido Carli di Roma, membro del comitato direttivo dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica, a Daniela Preziosi, giornalista del giornale Domani. E poi, sì, beh, lo dico, ci sono, questo discorso sulle donne lo so che apre un... ci stai mandando un sacco di messaggi da chi ringrazia, da chi dice e le donne single cornute e mazziate, no, in realtà no, e poi c'è tutta la questione dei servizi, un'ascoltatrice che dice ragazzi qua se non ci sono i servizi hai voglia a dare sgravi e non ne usciamo. Tema che affronteremo sicuramente un po' più approfonditamente, anche magari in uno spazio un po' più di dibattito, quando potremo. Veronica De Romanis, grazie. Daniela Preziosi, grazie. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite, su aruba.it.